ponci. La vita passa in fretta, ma tu non mi stai a ascoltare e continui a raccontare. Ma tu non mi stai a ascoltare, non puoi smettere di sognare. Ehi ponci, la partita l'hai giocata. Ehi ponci, ma forse era già perduta. E brava gente diceva, la brava gente schiacchierava, la brava gente certo che se lo aspettava. Spettri, spettri nella mia città, spettri che saranno l'incubo di chi non ha mai avuto pietà. Spettri, spettri nella mia città, spettri che saranno l'incubo di chi non ha mai avuto pietà. E ha rigato il mio cuore e dentro il vuoto ho lasciato il silenzio semplificato. Onore a tutti morti d'amore, onore a tutti morti d'amore, onore a tutti morti d'amore, onore a tutti morti d'amore, onore a tutti morti d'amore, onore a tutti morti d'amore. Hey Ponch, un anno passa in fretta. Hey Ponch, ma che non cambio rotta. Nel nostro parco vuol dire, aspettando un segnale, qualche cosa dal cielo, una speranza d'amore. Hey Ponch, qui si continua a lottare. Hey Ponch, se ci stai lì a guardare, mandacela buona, mandacela buona, e proteggici sempre, proteggici sempre, mandacela buona, e proteggici sempre, mandacela buona.